father was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. With my hands I could be beheaded. They must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Ciao a tutte e ciao a tutti. Questa è la trasmissione della coordinamenta che, come sapete, si chiama I nomi delle cose. Oggi, tanto per cominciare, dato che abbiamo ricominciato le trasmissioni da poco, vi volevamo ridire perché si chiama I nomi delle cose. Diciamo che Rosa Luxemburg ha detto che il mondo si comincia a cambiare chiamando le cose con il loro nome. E allora noi ci siamo resi conto che se volevamo cominciare a cambiare qualche cosa dovevamo dire le cose come stanno. E c'è qualcosa con la musica che non va, quindi adesso vediamo un attimo. Bene, ce l'abbiamo fatta, avevamo sbagliato qualcosa. Seven stars, heaven's eyes. Seven souls from seven seas. Just to bring all your sweet love home to me. Hey, honey, fill me like a mountain. Yeah, yeah, yeah, yeah. You'll fill me like a sea lion. Not time it fast, but still let me pass. Your love brings life to me. Allora, la prima parte della trasmissione volevamo dedicarla all'antisessismo sessista. Dice che cosa vuol dire? Vuol dire che cominciamo da una notizia che è recentissima, è del 4 ottobre 2013, che abbiamo preso nuda e cruda da Televideo e che chiaramente conoscerete, spero sicuramente. Tre poliziotti sono stati arrestati a Roma per due casi di stupro dagli uomini della squadra mobile della capitale. Si tratta di un sostituto commissario, un assistente e un operatore tecnico in servizio alla questura capitolina e in particolare al commissariato di San Basilio. I fatti loro contestati si riferiscono a due differenti episodi di violenza sessuale avvenuti ai danni di una donna sudamericana che era agli arresti domiciliari e di una ragazza italiana fermata per accertamenti la notte della finale degli europei il 1 luglio 2012. Allora, partendo da questa notizia che è praticamente l'ennesima notizia di uno stupro fatto da quelli che dovrebbero essere tutori dell'ordine e addetti alla cosiddetta sicurezza, tra virgolette, anche perché ricordiamoci sempre di svariati precedenti illustri che ci sono in queste occasioni. Però una cosa che ci colpisce è, per esempio, che questa cosa è successa il 1 luglio 2012, che le cose si sono sapute con molto ritardo e che comunque per quanto i poliziotti siano stati arrestati, questo tipo di notizie vengono trattate sempre in un modo particolare. Allo stesso tempo ci ricordiamo che fra poco, cioè anzi proprio di questi giorni in Parlamento, c'è il dibattito per la riconversione in legge del decreto sul femminicidio, no? Il decreto legge che è stato fatto qualche tempo fa, il famoso 93-2013. Perché mettiamo insieme queste due cose? Proprio perché c'è il famoso antisessismo sessista. Cioè, che cosa succede? Che il governo e comunque le istituzioni fanno un decreto sul femminicidio sull'onda di una situazione che è sotto gli occhi di tutti. Però questo decreto sul femminicidio non è altro che una scusa. Perché? Perché di fatto è un nuovo pacchetto sicurezza sotto mentite spoglie. E si è usato il vecchio metodo, però il gioco insomma ormai lo sappiamo è scoperto, di utilizzare un tema intorno a cui c'è consenso, come il femminicidio in questo caso, la condanna del femminicidio, per far passare l'obiettivo vero, che è l'incremento della militarizzazione sul territorio, l'uso e l'abuso dell'esercito che assume connotati polizieschi, la proliferazione di norme che permettano la persecuzione delle lotte sociali. E questo è stride in maniera particolare appunto col fatto che poi quelli che ci dovrebbero tutelare nella visione di questo ennesimo decreto sul femminicidio e pacchetto sicurezza travestito sono quelli che hanno il benefit, uno dei benefit, che è quello di agire violenza sui soggetti che sono sottoposti a loro e sotto la loro tutela, tra virgolette. Quindi le donne vengono sempre usate e abusate sessualmente. Allora, infatti, l'uso strumentale dell'attenzione al femminicidio, alla violenza di genere, per far passare politiche securitarie, poi per inciso non è altro che sul fronte interno il contraltare del pinkwashing sul fronte esterno, no? Che il neoliberismo usa per sostenere le guerre umanitarie, e quindi è particolarmente odioso. Oltre a essere odioso, è particolarmente pericoloso per noi, perché ci mette alla mercé di tutta una serie di soggetti e ci infantilizza e ci pone in condizioni di ulteriore subalternità, no? Tant'è vero che la risposta che questo decreto legge dà al problema della violenza di genere di tipo penale, corporativo, vittimizzante, infantilizzante, e le donne vengono lette come esseri da tutelare di fronte ad aggressioni brutte dovute non si sa bene a quale raptus, e quindi ignorando completamente la natura strutturale della violenza di genere. Allora, dato che invece la violenza di genere ha natura strutturale e lo Stato e il sistema sono i primi responsabili di questo, leggiamoci un documento che hanno fatto. Poi ieri mattina c'è stato un presidio di compagne proprio davanti al commissariato di San Basilio, e a proposito proprio di questo fatto accaduto vi leggiamo un documento di alcune compagne molto centrato. Scritto dalle compagne di Dinamo Press sugli stupri perpetrati da funzionari e agenti del commissariato di San Basilio di Roma. In un paese in cui vengono uccise due donne a settimana dai loro compagni, mariti, conviventi, ex fidanzati, l'ennesimo stupro ai danni di una ragazza detenuta ai domiciliari rischia di passare inosservato. Non fosse che a violentarla sono due poliziotti del già molto chiacchierato commissariato di San Basilio, che quello stesso ufficio è anche coinvolto in un altro stupro, stavolta a opera di un commissario. Il grado non aggiunge nulla alla gravità dell'atto, ma segnala lo stato di salute della polizia a tutti i livelli, ai danni di una diciottenne direttamente in caserma. Vedi il Corriere della Sera. Non fosse che tra ieri e oggi i quotidiani spiegano nel dettaglio, con un macabro istinto pornografico in alcuni casi come il Messaggero, il contenuto delle registrazioni fatte dalla ragazza, e che la notizia esce in parallelo con gli stupri da parte del pastore e qualche suo amico nella chiesa protestante di Torre Maura, ai danni di una donna migrante segregata. È già un miracolo che, malgrado battute, ammiccamenti e discorsi correnti, una ragazza ai domiciliari ha la lucidità di avvertire il pericolo e il coraggio di appostare un registratore sotto il letto, su cui i due poliziotti pensano bene di abusare di lei. E a forza di abusi di potere e di autorità, un poliziotto comincia anche a medesimarsi in un giudice dell'Inquisizione in salsa moderna, che tortura per poi proporre un abbassamento della pena, dai domiciliari alle firme. Si sa che le donne sono costantemente in pericolo. Si sa che lo sport preferito dagli sbirri in Italia è usare violenza e abusare nelle piazze, recentemente Valsusa. Nelle caserme, come accaduto nel febbraio 2011 nella caserma dei carabinieri del Quadraro, nelle carceri e ora anche nelle case in cui donne e magari anche uomini sono detenute e detenuti. Non c'è mai fine alle novità. Non c'è mai fine all'estensione nuda e cruda della normalità del male. È ora in discussione alla Camera, a parte gli intoppi della crisi isterica di governo e il Letta bis, la legge sul femminicidio e lo stalking, la cui eventuale approvazione avverrà il 14 ottobre, sempre che sopravviva alla pioggia diluviale degli emendamenti. Il dibattito si concentra sulle virtù dei braccialetti elettronici e la fondamentale irrevocabilità della querela, unica che garantisce un minimo la libertà delle donne. Pochi si azzardano a dire che dietro a questo DDL si nasconde un vero e proprio pacchetto sicurezza a basso costo, e che l'impianto della proposta nega l'autonomia delle donne a vantaggio di una prospettiva puramente assistenzialista. Nulla viene detto su come è possibile colmare quell'abisso che sussiste tra la legge e applicazione della legge in termini culturali, organizzativi e effettivi. Se poi chi dovrebbe far rispettare la legge è confuso, per essere caritatevoli, sui suoi compiti e comincia a stuprare le donne anche a casa, avvertiamo tangibilmente tutta l'insufficienza del dibattito parlamentare nostrano sulla sicurezza. E di stalking si parla anche nelle caserme. Nessuno si risparmia corsi sulla violenza di genere al giorno d'oggi, sui maschi perversi che si fissano sulle loro compagne, mentre avviene normalmente, banalmente, in silenzio e un po' dappertutto l'edizione postmoderna del Ratto delle Sabine. Lo stupro ha una storia vecchia quanto il mondo, ma questa annosa mostruosità non può più funzionare come meccanismo di normalizzazione, neppure fra i progressisti. L'intervista recente a Bertolucci, che parla della naturalità filmica della scena di sodomia in Ultimo Tango a Parigi, ci dovrebbe ricordare che è il momento di una rivoluzione, almeno comportamentale, se non generale, di donne, di uomini, di tutti. Quello che è accaduto nel già difficile quartiere di San Basilio non è normale, non è accettabile, non è sopportabile un minuto di più. Vogliamo che quei 3 poliziotti non siano solo temporaneamente sospesi, ma che non rientrino mai più in servizio, a differenza di quanto è avvenuto per gli aguzzini di Genova 2001, Cucchi, Uva, Aldrovandi. Vogliamo dirvi che per quello che ci riguarda il vaso è colmo, siamo libere di scegliere e pronti a reagire. E sempre a proposito di quest'ultimo fatto, chiaramente viene fuori sempre la retorica delle mele marce, no? Cioè, sì, può succedere, sì, sono colpa loro, sono dei soggetti fuori dalla norma, non è la normalità, eccetera, eccetera. Quindi il sistema, lo Stato cerca sempre di ricondurre questo accadimento a mele marce. Però noi sappiamo che non è così per un motivo. Primo, perché questi episodi sono ricorrenti e nella stragrande maggioranza dei casi le donne neanche li denunciano per tantissimi motivi. Le prostitute ne sanno qualcosa, che sono sempre ad altissimo rischio, e il fatto di essere trascinate fuori dentro dai commissariati senza motivo, perché in effetti la prostituzione non dovrebbe essere reato, ma poi di fatto vengono schedate, fermate, trascinate, eccetera, i risvolti sessuali di queste faccende sono altissimi. Poi, per l'esperienza che abbiamo maturato per esempio nei CIE, in cui sono successi già casi analoghi, ma non sono mele marce. Il problema è che tutte le donne che vengono schiaffate lì dentro, che vengono imprigionate, sono considerate prostitute a prescindere. Cioè, qualsiasi tipo di con tutto rispetto per il lavoro delle prostitute, che noi consideriamo lavoratrici sessuali, e quindi non c'è nessun giudizio di merito, però per chi lavora lì dentro, tutte le donne migranti sono a prescindere prostitute, per esempio. E quindi c'è un atteggiamento di fondo da parte di tutto un mondo in cui il maschilismo è portato all'ennesimo grado, che è quello del personale in divisa, dell'istituzione in divisa. Non dimentichiamo, per esempio, un fatto che che passa molto sotto silenzio, di cui si è parlato tanto e poco allo stesso tempo, come lo stupro dell'Aquila, no? In cui una ragazza è stata praticamente quasi ammazzata, perché è stata stuprata in maniera talmente violenta e feroce da rischiare la morte, tant'è vero che poi lo stupratore era stato anche indagato per tentato omicidio, accusa che poi invece è retrocessa. Però al di là di questo, l'autore, che è un militare, che è di Stanza all'Aquila, è un militare e adesso non è neanche più in carcere, con tutto che a noi il carcere non appartiene, non abbiamo nessun tipo di rivendicazione penale, giudiziaria, di tribunali da fare, però questo rispecchia le modalità con cui si muove il sistema. Cioè c'è una gerarchia di valori per cui il rapinatore si fa 20 anni, chi stupra e quasi ammazza una ragazza sta in giro. Questo è un dato di fatto. Allora, per esempio, sullo stupro dell'Aquila, che è stato fatto da un militare, siccome il territorio aquilano è militarizzato e i militari si muovono come in territorio di conquista, e in automatico chi sta in territorio di conquista ha le stesse modalità con cui procede nei territori coloniali, e non è un caso che uno stupro di questo tipo sia avvenuto all'Aquila. Allora, a ottobre ci sarà il processo di appello e speriamo di riuscire a muoverci in maniera adeguata. Intanto volevo finire spendere ancora due parole sul decreto sul femminicidio che viene discusso in Parlamento, perché è un decreto particolare, oltre al fatto di essere un pacchetto sicurezza travestito, è un decreto particolarmente lesivo per le donne, perché toglie loro l'autodeterminazione, dato che non può neanche ritirare la denuncia, ha una risposta di tipo corporativo vittimizzante, infantilizzante. Le donne vengono lette come essere da tutelare di fronte alle aggressioni, viene incentivata la delazione, la denuncia anonima, che è una cosa gravissima, per cui si aprono scenari di arbitrio e di persecutorietà, perché di fatto chiunque è autorizzato, in caso di supposta venga a conoscenza di supposte violenze di genere, a attivare le forze dell'ordine. Vi potete immaginare che cosa può succedere, chiunque può denunciare chiunque, no? Poi vai a capire se è vero, se non è vero, quanto è vero, con grave danno per le donne, per tutte le situazioni di violenza che subiscono, no? E poi, per esempio, è un tipo di decreto che per cui passerà ancora di più un odio profondo nei riguardi delle donne. Questo per noi è pericolosissimo. Perché? Perché già adesso nel comune sentire sta passando un discorso che le donne sono la rovina della famiglia, che i maschi, i mariti, i partners devono vivere in miseria dopo la separazione, vengono negati i loro figli, che vengono dati sempre alla compagna, sono senza casa, costituiscono associazioni di mutuo soccorso, e in questo modo si confonde l'aggressore e l'aggredita. E ci si dimentica, tra l'altro, che se non è possibile pagare un affitto o vivere con uno stipendio solo, non è certo colpa della donna, ma semmai di una società che dà stipendi da fame, insicurezza generalizzata, una società basata sui ruoli, sulla gerarchia, sul possesso materiale ed affettivo. E quindi tutti questi che si lamentano, si aggregano, confondono l'aggressore con l'aggredita, eccetera, farebbero bene e farebbero meglio a costituirsi in gruppi politici di opposizione a questo sistema, invece che in lamentose congreghe, appunto. E quindi, proprio perché nel comune sentire sta passando questo discorso, si può solo immaginare l'odio che può scaturire da un'impostazione di questo decreto legge, no? Perché è lo stesso meccanismo con cui nel terzo mondo sono state fomentate le guerre interetniche e religiose, e quindi evocato un mostro e poi difficile trovare il bandolo per tornare indietro. We'll be right back. Vi diamo un attimo i nostri indirizzi, per leggere i documenti e per risentire le trasmissioni potete andare sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org. Per scriverci il nostro indirizzo di posta è coordinamenta@autistiche.org e per finanziare questa radio che ci permette di trasmettere potete andare su www.ondarossa.info e trovate tutti i modi per dare il vostro contributo. To me. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Il DNA della sinistra. La parola è il segno fondante della comunicazione sociale. È implicata in ogni azione o contratto sociale ed è il termometro più sensibile dei mutamenti sociali. La parola è il primo e più importante fenomeno ideologico e studiare le parole significa studiare le ideologie e studiare queste ultime significa fare i conti con la parola. La parola ha la capacità di registrare il momento sociale ed è il termometro più sensibile dei mutamenti sociali. Da diverso tempo nella cosiddetta sinistra è avvenuto un mutamento genetico. Concetti che erano patrimonio e che del DNA della sinistra nella sua accezione più ampia erano parte fondante si sono persi o sono stati stravolti. La consapevolezza che la legge non è altro che la sanzione formale di un rapporto di forza tra le classi era un concetto acquisito e sedimentato. Ora la legalità è un feticcio a cui la sinistra riformista ha dato un valore totemico. funzionale alla conservazione di questa società, per cui nascono appelli e manifestazioni come quelle del prossimo 12 ottobre sulla Costituzione, dove si strumentalizza tutto e tutti, e volutamente si omette che il PD ha violato e viola la Costituzione laddove vota, partecipa e finanzia le guerre umanitarie e foraggia le scuole private. Che questo Stato fosse la configurazione organizzativa della borghesia e il momento cardine in cui si scontrano e si ricompongono gli svariati interessi della classe al potere era un dato acquisito. Ora, nella stagione in cui l'iperborghesia transnazionale mira al governo diretto, superando addirittura i parlamenti nazionali, il concetto di Stato si è imposto come qualcosa di neutro, come organo al di sopra delle parti necessario al funzionamento della società. La comprensione del ruolo della magistratura e della polizia e delle istituzioni repressive, l'una a tutela della conservazione del potere, le altre il braccio armato contro ogni tentativo di messa in discussione e contro ogni velleità di organizzazione alternativa di classe, era patrimonio comune della sinistra, anche in quella buonista e socialdemocratica che tutt'al più cercava spazi di mediazione. Ora magistrati vengono presentati come testimonial della sinistra e poliziotti, affini, annessi, connessi e collaterali vengono sempre dalla cosiddetta sinistra chiamati a convegni e conferenze anche da realtà femminili e considerati interlocutori per la cosiddetta sicurezza, altro concetto stravolto, manipolato, trasformato dal legittimo desiderio di una vita dignitosa e di una serena vecchiaia in tutela del perbenismo di stampo vittoriano contro una pericolosa plebaglia. E la cosiddetta sinistra in prima fila nella caccia all'evasore fiscale. Chi possiede le ricchezze in questo sistema non verrà mai messo in discussione. Non mi direte che le tasse servono a pagare lo Stato sociale? Perfino lo sceriffo di Nottingham si metterebbe a ridere. La coscienza che l'immunità parlamentare tuteli la minoranza contro l'imbarbarimento dello scontro politico è patrimonio degli oppressi dai tempi dei Gracchi. Ma ora la cosiddetta sinistra è attiva e determinata nel suo affossamento. Ad ogni piede sospinto vengono chiesti inasprimenti penali a tutela di categorie contro l'omofobia, contro la violenza sulle donne, contro il razzismo. Ma non faceva parte del DNA del popolo di sinistra la distanza dal carcere e dai tribunali e la coscienza che soltanto le lotte politiche possono contrastare le oppressioni? Per questo è necessario smascherare i codici linguistici del potere che costituiscono la rete essenziale del controllo sociale, riconquistare una memoria autonoma della lotta femminista e della lotta di classe. Sarebbe il caso di ricominciare dalla lettura materialista della storia e della nostra vita e di rifiutare il carattere feticcio e alienato dell'ideologia vincente. I riformisti socialdemocratici si sono trasformati in destra moderna, si sono fatti carico di diffondere il verbo neoliberista sfruttando linguaggi, modi, percorsi di sinistra per infilarsi in ogni coscienza e abbattere le resistenze. Ciao. Bene, siamo di nuovo qua, cominciamo la seconda parte che è sull'antirazzismo razzista. Lampedusa, 7 ottobre 2013. Prosegue il macabro recupero dei cadaveri del naufragio di giovedì scorso a Lampedusa. Ieri dal relitto del barcone, che giace a circa 50 metri di profondità davanti alla costa dell'isola dei Conigli, sono stati estratti 83 corpi, mentre oggi i sommozzatori ne hanno riportati a galla 37. 20 sono stati recuperati nel pomeriggio, uno dei corpi è di una donna, 17, tra i quali 4 donne, in mattinata. Il numero totale dei morti, fin qui accertati, si attesta a 231. Chiaramente il primo che si è espresso è il Papa, dicendo che è una vergogna. Ma noi ci ricordiamo che il Cardinal Bagnasco ha detto che le priorità che l'Occidente ed il governo dovevano avere erano la famiglia e le guerre umanitarie. Chiaramente questa notizia, che ha fatto il giro d'Italia, è stata strumentalizzata in lungo e in largo da tutti. E la parola strumentalizzazione è l'unica che si può usare e ci ha indignate particolarmente. Ci siamo andate a vedere, così scorrendo, quello che hanno detto vari personaggi, no? Per esempio, Napolitano, sullo shock del tragico sbarco al largo di Lampedusa. Il presidente Napolitano parla della tragedia dei migranti che, virgolettato, scuote le coscienze e impone a noi tutti di porre in essere le misure necessarie per evitare il ripetersi di queste tragedie. Siamo ormai dinanzi a succedersi di vere e proprie stragi di innocenti, sino alla più sconvolgente questa mattina a Lampedusa, che non si può girare attorno alla necessità assoluta di decisioni e azioni da parte della comunità internazionale, in primo luogo dell'Unione Europea. È indispensabile, ha aggiunto il capo dello Stato, stroncare il traffico criminale di esseri umani in cooperazione con i paesi di provenienza dei flussi di migranti e richiedenti asilo. Sono pertanto indispensabili presidi adeguati lungo le coste da cui partono questi viaggi di disperazione e di morte. E tanto per cominciare, non è accettabile che vengano negate a un'istituzione valida creata dalla Commissione Europea, il Frontex, mezzi adeguati per intervenire senza indugio. Allora, queste parole di Napolitano ci fanno, per essere buone, salire il sangue agli occhi. Perché? Perché i CIE sono stati istituiti con la legge turco-napolitano del 1998 e i CIE sono per la prima volta nella storia italiana luoghi di detenzione per una condizione e non per un reato, per una condizione amministrativa, cioè di qualcuno che non ha fatto assolutamente nulla ma si trova in una condizione particolare. Queste sono le parole di chi ha fatto quella legge. Oltretutto adesso si cerca di trascinare il tutto sul piano della legge Bossi-Fini. Certo, la legge Bossi-Fini è stato un adeguamento della turco-napolitano che ha preso in considerazione in particolare il reato di clandestinità. Però lo strappo è stato fatto dalla legge turco-napolitana ed è un vero e proprio vulnus nel diritto e apre scenari di controllo sociale impensabili. Boldrini, Laura Boldrini: la dimensione di questa nuova tragedia è tremenda, ma i motivi che spingono queste persone a mettersi in viaggio, affermato, sono sempre gli stessi: guerre, persecuzioni, violazioni dei diritti umani. Già, peccato che Laura Boldrini, che ha una lunga esperienza all'ONU in questo senso, proprio sui flussi migratori e sulle politiche migratorie, si dimentichi delle ragioni per cui ci sono le guerre, per cui ci sono le persecuzioni, per cui ci sono le violazioni dei diritti umani. Cioè, noi facciamo le guerre neocoloniali, andiamo a distruggere economie di sussistenza, andiamo a destabilizzare stati, andiamo a occupare territori militarmente, fisicamente, a depredare le ricchezze, dopodiché ci diciamo: guerre, persecuzioni, violazioni dei diritti umani sono i motivi che spingono queste persone a mettersi in viaggio, parole testuali, e questo è l'aspetto più sconvolgente. È l'ipocrisia fatta sistema. Compagne, scusate, ma è la terza volta che ci parte la sigla. Non so perché. Vabbè, cambiamo. She's 22 and she's loving you and you'll never know how it makes me blue. Does it make you happy? I'm holding on to a thing that's wrong, 'cause we but you liked my songs and you made me happy. Does she make you happy? You can throw away every word I say. La ministra Chienge a Lampedusa. Si è commossa, ha pianto, davanti a quei corpi inghiottiti dal mare e che vengono recuperati senza interruzione, martoriati dal tempo che passa e dai pesci. Cécile Chienge, la settimana prossima avvieremo un coordinamento interministeriale per rivedere la Bossi-Fini. La legge va cambiata, non ci deve essere un approccio repressivo, ma accoglienza. Sono assurdi gli avvisi di garanzia per reato di clandestinità nei confronti dei superstiti della tragedia di Lampedusa. La ministra ha detto che dovevano essere riviste le norme riguardanti l'asilo politico, ma non ha detto una parola sulle ragioni vere degli sbarchi sulle nostre coste. È questo che noi chiamiamo antirazzismo nazista. Cioè come abbiamo chiamato prima l'interesse strumentale riguardo alla violenza delle donne, antisessismo o sessista, perché questo tipo di società è caratterizzata proprio dalla strumentalizzazione dei diritti umani, della violenza sulle donne e del razzismo. Praticamente si ammanta di carità pelosa rispetto a tutto quello che lei stessa provoca e i paesi occidentali provocano in prima persona, però poi strumentalizzano il razzismo per lavarsi la faccia. Questa dell'antirazzismo razzista è una concezione che abbiamo trovato molto giusta, molto vera e molto azzeccata, che ci viene da Colette Guyomain. Allora, Colette Guyomain è poco conosciuta in Italia ed è anche scarsamente tradotta, però è una delle intellettuali che hanno maggiormente contribuito alla riflessione sul rapporto fra corpo, sesso e razza. È francese e appartiene a quello che viene definito femminismo materialista francese, che in effetti in Italia è tradotto pochissimo ed è pochissimo conosciuto, no? Per esempio, la visione di Guyomain è radicale. Le razze non esistono, sono fatti sociali, ma non realtà. È il razzismo come ideologia che produce la nozione di razza e non la razza che produce il razzismo. Le razze, come i sessi, sono costruzioni sociali e il razzismo, come il sessismo, una forma ideologica ancorata a una naturalizzazione dei fenomeni sociali. In altri termini, ciò che accade non è che camminano in parallelo un razzismo etnico e un razzismo sessuale o sessismo, ma piuttosto razzismo e sessismo funzionano insieme. In particolare, il razzismo presuppone sempre un sessismo. Questo che abbiamo letto l'abbiamo preso da dall'ultimo quaderno viola, Non si nasce donna, che è impostato, cioè quest'anno è fatto su percorsi, testi e contesti del femminismo materialista in Francia, e che vi consigliamo assolutamente di leggere, perché il femminismo materialista apre degli scenari di comprensione delle nostre oppressioni eccezionali, ed è molto poco conosciuto, praticamente come molto poco conosciuta la Colette Guillaumin, è molto poco conosciuta Christine Delphi, e come sono anche molto poco conosciute altre esponenti che vengono invece di cui vengono portati proprio degli stralci tradotti nel quaderno viola, che vi consigliamo di leggere. Particolarmente ipocrita questo atteggiamento delle istituzioni nei confronti di quello che è successo, perché questo non è un fatto eccezionale. Negli ultimi 10 anni in mare sono morte oltre 6.000 persone, mentre dal 2000 ad oggi sono sbarcati 265.722 migranti. Adesso cercheremo di metterci in contatto con le 2511 di Milano. Le 2511 sono un collettivo femminista che prende il nome dal 25 novembre, per questo 2511, proprio perché per loro il 25 novembre è una data importante, non tanto per la violenza sulla giornata contro la violenza sulle donne, quanto perché sono state picchiate in piazza dalla polizia mentre manifestavano contro la violenza sessuale che era stata agita nel CIE di Via Corelli a Milano, e da qui loro hanno cominciato a interessarsi di chiamiamole politiche migratorie dal punto di vista di genere, e quindi la loro esperienza è particolarmente importante. Adesso cercheremo di sentirle, perché questo che è accaduto non è un fatto eccezionale come ci vogliono propagandare. Pronto? Eccoci, meno male, ci siamo riuscite. Allora, siamo qua con le 25:11, vi abbiamo detto il collettivo femminista che si occupa da tanto tempo di questioni di genere e migranti, e vogliamo sentire direttamente da loro cosa hanno da dirci e cosa ci raccontano di tutto quello che è successo nel Mediterraneo in questi tempi, e le diamo la parola. Ciao Melissa. Ciao, ciao Elisabetta, ciao a tutte e tutti. Sì, dunque, non mi dilungo troppo rispetto a la nostra attività sulla lotta delle madri e delle famiglie dei ragazzi tunisini dispersi che nel 2011 sono partiti subito dopo la rivoluzione per insomma realizzare il loro sogno il loro sogno di libertà, di muoversi, nel senso, non mi dilungo, cioè tutta la lotta e l'abbiamo raccontata in tante occasioni. Certo, quello che, sentendo appunto i discorsi di questi giorni in occasione di questa ennesima strage, colpisce è proprio come dire, un atteggiamento che molto ipocrita, ma allo stesso tempo anche strumentale rispetto appunto a un'ennesima strage dove le responsabilità delle politiche migratorie sono evidenti, e forse quello che in questi giorni almeno è stato detto da una certa stampa è almeno in maniera chiara che appunto ci sono delle responsabilità da parte delle istituzioni. Non è però un problema che riguarda soltanto certe categorie di persone che decidono di agire la libertà di movimento, ed è forse questo quello che, rispetto a una lotta come quella delle famiglie tunisine ad esempio, colpisce, cioè non sono soltanto le persone che decidono di scappare e quindi di mettere in atto una libertà di movimento per fuggire da un paese che si trovano a affrontare il Mediterraneo perché un'altra possibilità di movimento non c'è, sono tutte le persone che decidono appunto di vivere la loro vita anche muovendosi, proprio come hanno fatto i ragazzi tunisini nel 2011, quando subito dopo la rivoluzione hanno deciso appunto di raggiungere l'Europa. Quindi una richiesta come quella di oggi, che fa riferimento a abolizione di una parte della legge sull'immigrazione, abolizione della Bossi-Fini, si dice in maniera generica, piuttosto che istituzione di canali umanitari in modo che le persone che abbiano diritto d'asilo possano presentarlo nei paesi di origine per arrivare qua senza dover affrontare i rischi di un viaggio a mare con carrette, è un discorso appunto che è soltanto parziale, racconta soltanto una parte di tutto quello che invece politiche migratorie, che hanno l'unico fine di governare la vita delle persone, continuamente fanno. Noi ci ha colpito in maniera particolare il fatto che ancora una volta anche la ministra Kenge abbia diviso fra chi ha diritto diritto all'asilo politico e chi invece viene qui per motivi economici, testuali ha detto questo, no? Primo. E secondo, senza fare nessun accenno al fatto sul perché queste persone vengono qua, per esempio, e sulla responsabilità rispetto a tutta una serie di questioni internazionali. E poi anche un'altra cosa, proprio riguardo anche alla vostra lotta, ci ha colpito il fatto che come intuizione, buon senso, il Mediterraneo pensiamo che sia monitorato non lo so, più di qualsiasi altro territorio, e che ci sia un tipo di controllo talmente serrato per cui è impossibile che non sappiano quello che succede. Sì, nel senso, cioè, dici, mi ha colpito rispetto al fatto che c'è invece un'individuazione soltanto di certi soggetti, certo, responsabili, quando in realtà appunto c'è un controllo capillare del Mediterraneo, e quindi è all'evidenza dei soggetti che controllano, certo, il fatto che appunto ci siano delle persone che muoiano in mare, che quindi attraverso questo controllo queste morti sono possibili, sono determinate. Certo, quindi. Perché proprio così a livello di buon senso penso che sia assolutamente improbabile che la NATO, la Frontex, tutte le varie soggettività che sono presenti nel Mediterraneo a livello d'acqua, a livello d'aria, non abbiano un costante monitoraggio di tutto quello che passa, cioè non cade foglia che non lo sappiano. Sì, su questo dunque in realtà siamo un po' in difficoltà come collettivo rispetto proprio a questa questione che poni, cioè del fatto che le istituzioni abbiano esattamente contezza di che cosa succede nel Mediterraneo, proprio perché è un campo minato di controlli e che quindi proprio attraverso questi controlli questo sia uno dei motivi per cui succedono queste morti in mare. Dico siamo in difficoltà perché un po' di mesi fa è comunque partito un appello nei confronti delle istituzioni comunitarie da parte delle famiglie dei dispersi, chiedendo all'Unione Europea, l'appello è così intitolato: vogliamo conoscere i vostri saperi. Ecco. E cioè appunto se queste tutte queste strumentazioni, tutte queste modalità di controllo che servono per governare le migrazioni, questa volta mettetele a disposizione per sapere, per dare una risposta alla domanda che i familiari dei dispersi pongono. Certo. La difficoltà da parte del nostro collettivo è quella che rispetto comunque a una lotta che ha degli elementi di innovazione, cioè quella dei familiari che nel momento stesso in cui chiedono conto alle politiche migratorie della vita dei loro figli, allo stesso tempo denunciano la loro responsabilità, la modalità che hanno individuato è quella comunque di rivolgersi a quelle istituzioni che a quelle domande non daranno mai una risposta, perché dando una risposta riconoscerebbero le loro responsabilità. E quindi da un lato questa insistenza da parte loro nel porre una questione che appunto proprio nel momento in cui viene posta è parte del contrasto, dell'opposizione a queste politiche. Certo. Ma allo stesso tempo da un lato un po' il deserto intorno, perché significa come dire relazionarsi con le istituzioni, ma non nel senso di dire arriviamo, scendiamo a patti con voi, ma queste risposte perché non le date, no? Certo, tirare fuori una contraddizione forte. Tirare fuori una contraddizione e però anche appunto un po' da un lato l'isolamento rispetto in generale al movimento, non sto parlando soltanto della sinistra che siamo, insomma, quella istituzionale, sì. che fa un utilizzo strumentale di queste, certo, stragi per porre delle questioni parziali e per arrivare a degli aggiustamenti di una legge che in sé comunque è responsabile di queste morti, laddove dice tu puoi entrare, tu no, perché è basata su flussi, su tipologie di persone, su chi decide di muoversi, per sulle motivazioni di chi decide di muoversi. Ma sto parlando anche del fatto di un movimento che difficilmente, rispetto appunto a un'altra sponda che in qualche modo quella questione pone, resta un po', come dire, distaccato rispetto a una lotta di questo tipo. Noi stesse siamo un po' in un impasse, noi stesse, certo, come collettivo, rispetto appunto da un lato a il tipo di lotta che hanno scelto in Tunisia e che necessariamente individuano nel rapportarsi alle istituzioni per porre questa domanda. Certo. Dall'altro anche appunto non avere un'altra modalità perché questa, come dire, questo contrasto e questa affermazione della libertà di movimento in qualche modo venga riconosciuta appunto come una lotta sei stata chiarissima, e infatti diciamo che il vostro percorso, noi speriamo che non molliate che questo tipo di difficoltà, che abbiamo capito benissimo che apre scenari, insomma, di contraddizioni forti, comunque vi permetta anche di discutere, di approfondire. Fateci sapere, teneteci aggiornate, perché di soggettività e poi femministe, poi di donne che hanno la forza di occuparsi di queste cose ce ne sono veramente poche. Quindi vi, sì, ringraziamo tanto. Grazie a voi. Ecco, la cosa che forse un approccio che si potrebbe avere appunto per anche contrastare questo discorso di questi giorni è quello di riconoscere veramente questi soggetti come dei martiri di una lotta per la libertà di movimento, cioè ci viene spesso passato in questi giorni un discorso tutto basato sul pietismo, sì, sull'umanitarismo. Siamo invece, sì, di fronte a persone che appunto a rischio della morte quelle politiche le contrastano continuamente. Questo discorso non è posto in questi termini, e quindi ben vengano tutte le situazioni, occasioni come le vostre, dove appunto ci sia una possibilità di quantomeno individuare, insomma, affrontare la questione tenendo conto appunto dell'apporto che queste persone danno ognuna con la propria vita rispetto a a queste politiche, al modo di contrastarle. Certo. Ecco.